Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, sono le 13:33 minuti e 8 secondi e questa Italia in controluce, l'edizione del pomeriggio. Vi ricordo due edizioni quotidiane che raccontano ogni giorno l'Italia. Andrea Molaioli torna nei cinema italiani con un film chiamato Il Gioiellino, un film civile ispirato allo scandalo del crack Parmalat che portò in carcere per bancarotta fraudolente tutti i vertici della società agroalimentare, gettò nella disperazione azionisti e piccoli investitori. Lo ha visto per noi in anteprima Massimiliano Zampini. Questa mia azienda non sarebbe pronta com'è a espandersi verso nuovi mercati, verso l'est, verso l'Europa liberata dal comunismo, se non avesse, oltre al prodotto, dei valori. Lunga vita alla Lega! Per stare nella Serie A del capitalismo bisogna giocare a tre punte con il tridente. Un giornale, una squadra di calcio e una banca. Quando il cinema racconta la realtà di un paese in cui un imprenditore che frequentava i salotti buoni e vinceva in Europa con la sua squadra di calcio ha portato al collasso la sua azienda, truffando decine di migliaia di risparmiatori. Eccolo il caso Parmalat sul grande schermo nel Gioiellino, il film di Andrea Molaioli ispirato al più grande scandalo finanziario italiano. Un buco da 14 miliardi, creato in modo criminale da Calisto Tanzi e dal suo direttore finanziario Fausto Tonna, che lo scorso dicembre sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Parma, rispettivamente a 18 e 14 anni di carcere per bancarotta fraudolenta. Un racconto teso, avvincente, che ricorda la grande tradizione di impegno civile del cinema italiano degli anni 70, di autori come Francesco Rosi ed Elio Petri. Un film che ha scosso molto l'avvocato Antonio Tanza, vicepresidente dell'Adusbef, che nelle aule di tribunale ha rappresentato circa 2000 risparmiatori e che ha visto in anteprima con Radio 24 Il Gioiellino. Senz'altro è un bel film, e in quanto regala emozioni. A me ha dato sinceramente un senso di angoscia, purtroppo questo senso di angoscia lo viviamo tutti i giorni, è quasi un risveglio, un rivivere un trauma durato tanti anni. Lo dico come avvocato di 2000 consumatori che hanno sperato, il film finisce dove la mia storia invece comincia ed è altrettanto angosciante. Il regista Andrea Molaioli, al suo secondo film dopo il grande successo della Ragazza del Lago, vincitore tra l'altro di 10 David di Donatello, così spiega i motivi che l'hanno spinto a raccontare questa storia. La vicenda Parmalat, ma non esclusivamente la vicenda Parmalat, erano ovviamente dentro, erano quasi delle avanguardie di quello che poi è accaduto nella crisi finanziaria successiva. E quindi mi sembrava interessante provare a ricostruire una vicenda che da quello partiva, che a quella vicenda è ispirata, ma non esclusivamente a quella, e provare a ricostruire un terreno soprattutto culturale che è quello che ha agevolato e favorito anche il proliferare di una serie di conduzioni aziendali così scellerate. La vicenda Parmalat insieme ad altre mi sembrava che fosse un po' il paradigma di un periodo, di un'epoca. Allora, come è andata? I soldi non ci sono, Ernestino, non ci sono più. Allora dove li troviamo? Li rubiamo, facciamo una rapina? Inventiamoceli. A dare corpo cinematografico ai personaggi ispirati a Calisto Tanzi e Fausto Tonna sono Remo Girone e Tony Servillo. Ambedue gli attori hanno detto di non aver voluto studiare troppo i personaggi reali per non rischiare di appiattirsi sulla cronaca, affidandosi quindi alle ricerche e alla scrittura degli autori. Sentiamo Servillo. Si sono molto ben documentati gli sceneggiatori e il regista, offrendoci un copione che era sufficientemente ricco di sfumature da poter costruire un personaggio. Sui personaggi ispirati a Tanzi e Tonna, Molaioli ha le idee molto chiare. Io penso che siano esemplificativi di una mancanza di morale, in qualche modo, di quel senso di impunità comunque diffuso, di quell'idea di quel forte convincimento di chi compie un crimine e quasi forse non ne è neanche fino in fondo consapevole, cioè è convinto comunque che vada fatto semplicemente perché così è giusto, dal proprio punto di vista, frega in barba a qualsiasi regola appunto regola, limite, argine che appartengono invece a un'idea di convivenza civile e collettiva. Entrando nei personaggi, i due attori si sono fatti un'idea molto precisa di chi potevano essere le figure di Tanzi e Tonna. Ecco prima Girone e poi di nuovo Servillo. Ho capito facendolo che non si sta parlando di perché esistono pure i geni del male, no? Non si sta parlando di geni del male, si sta parlando di persone medie, no? Non particolarmente dotati nella truffa o nell'imprenditoria, ma sono persone in cui diciamo, la soglia morale, la soglia di quello che si può fare o non si può fare, è andata nel tempo molto abbassandosi. Rappresenta forse rispetto agli altri che vanno baldanzosamente verso un'allegra, nuova finanza, qualcuno legato alla scrivania, al lavoro quotidiano, a una religione della sua industria, della sua fabbrica, e in questo modo ha ancora una forte relazione nei confronti del prodotto, della concretezza del prodotto, teme una, almeno nel racconto del nostro film, una economia in cui il denaro produce altro denaro, ma la sua ambizione, la relazione col suo capo non gli impediscono a un certo punto di ritenere, di mettere la sua abilità al servizio forse del crimine più grande che si perpetra in questo film, cioè quello di inventarsi il denaro lì dove il denaro non esiste. I comportamenti che hanno causato il crack Parmalat, favoriti anche dalla connivenza del sistema finanziario, sono, secondo Servillo, solo l'inizio di una storia di degrado civile e morale di cui ci siamo tutt'altro che liberati. Lì è cominciato qualche cosa che ha fatto sì che poi tante cose degenerassero, e una delle cose che secondo me lanciano l'allarme più forte è che certi meccanismi di corruzione morale producano una corruzione sul piano dei comportamenti e del linguaggio, per cui si abbassa sempre di più l'assicella della impunità e tutto sembra lecito, perché di niente sembra più che ci si debba vergognare. Diciamo che questo film si mette, credo, dalla parte di tutti quelli che ne hanno i nervi a fior di pelle rispetto a questa situazione nella quale siamo precipitati, e quindi dal punto di vista morale come se lanciasse un allarme. Anche l'analisi di Molaioli su questo punto è piuttosto scoraggiante. Io temo che non ce lo siamo lasciati alle spalle, nel senso che la cronaca muterà, perché cambieranno i soggetti che verranno presi in esame, però penso che la società, la nostra perlomeno, ma la nostra in particolare, la nostra nel senso quella italiana, non mi sembra che stia adoperandosi tanto per fare in modo che per cercare delle contromisure. Mi sembra che l'atteggiamento sia quello di far passare la nottata. Il film finisce con la scoperta del crack e qui è iniziata un'altra storia, quella dei tanti risparmiatori che hanno creduto in Parmalat e chi consigliava loro di investirci. E questa è una storia che sembra senza fine, in cui la beffa è quasi comparabile al danno. Sentiamo ancora l'avvocato Tanza dell'Adusbef. La tragedia è che tutti i soldi dei consumatori sono andati a finire nelle banche, e questo, e continuano a rimanere nelle banche, che fanno delle offerte pietose, si offre il 3, il 5, vi è veramente una forma di scoraggiamento totale. Il signor Luigi della provincia di Bergamo è uno di quelli che in Parmalat avevano creduto, investendoci i propri risparmi, e che da quei giorni del 2004 sta vivendo un'odissea senza fine. Io mi sono costituito come parte civile in tutti i processi riguardanti la causa Parmalat. E la causa è stata vinta a distanza di tanti anni, però purtroppo, essendo questa società inadempiente in termini economici, io come risparmiatore non ho avuto il rimborso di un euro. Circa 2 anni fa ho avuto la fortuna di partecipare a una class action con la Parmalat Settlement americana. Ho scritto e ho inviato i documenti che attestavano l'acquisto e la vendita di queste azioni, e di conseguenza come reclamante mi sono visto recapitare un assegno pari a un importo di circa 2.500 euro qualche giorno fa a casa mia, senza spendere nemmeno un euro. È una cifra piccolissima, una portata al capitale che io ci ho rimesso. Io questo film senz'altro andrò a vederlo, anche se poi alla fine uscirò dalla sala ancora una volta rabbioso, mi procurerà solo rabbia e dolore. Oggi Parmalat è un'azienda risanata grazie a Enrico Bondi. Prima da commissario straordinario e poi da amministratore delegato l'ha rimessa in sesto, facendola tornare realmente profittevole. Eppure dalle parti di Collecchio i fondi di investimento internazionali presenti nel capitale vorrebbero presto un cambio della guardia perché imputano a Bondi troppa prudenza nei piani di espansione del gruppo. Rispetto al passato è tutta un'altra storia. Speriamo che anche il finale sia profondamente diverso da quello scritto 7 anni fa dalla tragica saga di Calisto Tanzi. Grazie a Massimiliano Zampini per questo racconto a metà tra cronaca e cinema, il film Il Gioiellino di Andrea Molaioli, che vedrete a partire da venerdì. Questa era l'edizione, la seconda di oggi di Italia in Controluce. Vi ricordo 6.30, 13.30, uno sguardo nella cronaca italiana ma anche nella politica delle città, ma parliamo anche di cultura e di spettacolo. Cercateci su Facebook, siamo su Twitter, il nostro blog lo trovate su radio24.it e la nostra mail controluce@radio24.it. domani 6.30 puntuali su Radio 24.